William Smith Williams, referente di Charlotte presso la casa editrice, 28 ottobre 1847. Gentile signore, ho apprezzato molto leggere la sua ultima lettera ed essa mi ha offerto piacevoli spunti di riflessione. Sono onorato di godere della stima del signor Thackeray, poiché lo stimo a mia volta. Potrebbe sembrare presuntuoso, ma ciò che intendo è che da tempo ho riconosciuto nelle sue opere un autentico talento che me lo fa ammirare e che ha suscitato in me stupore di letto. Mi pare che nessun autore abbia la sua capacità di discernere il grano dall'olio, di distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. Ho sempre pensato che dietro la sua austerità si nascondessero sentimenti veri e profondi. Ora ne ho la certezza. Una sola buona parola da un uomo simile vale come intere pagine di elogi da parte di giudici comuni. Lei ha ragione a credere nell'autenticità del personaggio di Ellen Burns, è assolutamente rispondente alla realtà. Non ho esagerato nulla al riguardo, anzi mi sono trattenuto dal riportare tutto ciò che ricordavo di lei, temendo che il racconto risultasse poco credibile. Ciò premesso, posso soltanto sorridere dinanzi al pacato e compiaciuto dogmatismo con il quale una rivista ha dichiarato: creazioni letterarie come quella di Ellen Burns sono straordinarie, ma del tutto irrealistiche. La trama di Jane Eyre può essere abusata. Il signor Thackeray sottolinea che gli è familiare, ma per quanto mi riguarda, avendo letto un numero limitato di romanzi, non mi è mai capitato di incontrarla e l'ho creduta originale. Non ho avuto la fortuna di sentir parlare dell'opera a cui il critico dell'Ateneum si riferisce. Il Wiki Chronicle sembra incline a identificarmi con la signora Marsh. Non ho mai avuto occasione di esaminare una riga della signora Marsh, ma vorrei davvero conoscere il suo lavoro e lo farò alla prima occasione. Mi auguro di non scoprire di essere stato un suo inconsapevole imitatore. Vorrei sforzarmi di tenere basse le aspettative sul successo che potrà riscontrare Jane Eyre, ma il mio desiderio cresce in virtù del suo grande interessamento per l'opera e sarei molto dispiaciuto se il suo impegno venisse frustrato e le sue rosee aspettative disattese. Mi perdoni se torno a palesare il mio timore che esse siano troppo ottimistiche, ma sarebbe opportuno moderarle. Cosa mai potranno vedere in genere i critici dei quotidiani e delle riviste, se davvero si degneranno di leggerlo, tanto da accordare una seppur parziale approvazione? Non contiene cultura né ricerche, non affronta temi di interesse pubblico. È un semplice romanzo domestico, che temo possa apparire ordinario a uomini di larghe vedute e solide convinzioni. Eppure, un impegno determinato e costante come il suo dovrà sfociare in risultati positivi, e sono certo che non tarderanno. Le invio i miei sinceri rispetti. Current Bell, pseudonimo di Charlotte Bronte. PS, ho appena ricevuto il tablet e il Morning Advertiser. Nessuno dei due sembra ostile al libro, ma noto come produca effetti differenti su nature differenti. Mi sono divertito a leggere l'analisi del tablet, in alcuni passaggi assai bizzarra. Trovo che non sempre il critico abbia colto le mie intenzioni. Ad esempio, parla di un incomprensibile timore di Jane per i modi scostanti del signor Rochester. Io non me ne ricordo. A George Henry Lewes, 6 novembre 1847. Gentile signore, ieri ho ricevuto la sua lettera. Le assicuro che apprezzo molto le intenzioni che l'hanno spinta a scriverla e la ringrazio sinceramente sia per gli elogi incoraggianti che per i validi consigli. Mi segnala di prestare attenzione al melodramma e mi raccomanda di attenermi alla realtà. Quando ho iniziato a scrivere, ero così devota all'autenticità e ai principi da lei stesso sostenuti che ero deciso a far sì che la natura e la verità fossero le mie uniche guide, per poi seguirne le orme. Mitigavo l'immaginazione, rifuggivo il romanticismo, reprimevo la frenesia, evitavo i toni troppo accesi. Cercavo di scrivere qualcosa che fosse delicato, serio e autentico. Concluso il mio lavoro, l'ho proposto a un editore, il quale lo ha trovato originale e fedele alla natura, ma privo di quelle minime garanzie di successo che lo inducessero a promuoverlo. Un'opera simile non avrebbe venduto. Ho provato con altri sei editori, tutti mi hanno detto che il mio scritto mancava di eventi dirompenti e tensione emotiva, che non sarebbe stato adatto per il pubblico delle biblioteche popolari e che, dato che proprio da queste dipendeva gran parte del successo dei romanzi, non avrebbero potuto editare qualcosa che non avrebbe trovato spazio in quell'ambito. In un primo momento anche Genè ricevette obiezioni simili, ma fu infine accettato. Le dico questo non per sottrarmi alle critiche, ma per indirizzare la sua attenzione sull'origine di certi mali letterari. Mi suggerisce anche di non allontanarmi dal terreno dell'esperienza, poiché perderei efficacia quando mi avventuro nella finzione, e afferma che l'esperienza reale risulta sempre ricca di interesse per qualsiasi essere umano. Ne sono convinto anch'io, ma, gentile signore, l'esperienza del singolo individuo non è forse assai limitata? E se lo scrittore indugiasse soltanto principalmente all'interno dei suoi confini, non rischierebbe di cadere nella ripetizione, nell'egocentrismo? Inoltre, l'immaginazione è un'abilità potente, inquieta, che richiede di essere ascoltata ed esercitata. Dovremmo forse essere sordi al suo appello e insensibili alle sue lotte. Quando essa ci mostra immagini luminose, non dovremmo invece osservarle e tentare di riprodurle? E quando ci si manifesta e ci parla rapidamente e con veemenza all'orecchio, non dovremmo scrivere ciò che ci è detta? Sono ansioso di scoprire sul prossimo numero di Fraser quale sarà la sua opinione in merito. Mi creda, caro signore, sinceramente grato, Current Bell. A William Smith Williams, 14 dicembre 1847. Gentile signore, ho appena ricevuto la sua cortese e gradita lettera dell'11 scorso. Vado subito al punto principale. Ho riflettuto a lungo, naturalmente, a proposito dell'eventualità di un secondo libro. Credo che però, per me, a questa altezza, sarebbe prematuro affrontare una pubblicazione a episodi. Non ho acquisito un favore di pubblico sufficientemente solido e non posseggo abbastanza fiducia nei miei mezzi e nemmeno posso vantarmi di avere quella indomabile natura, quel regolare controllo di sé e della propria facoltà di comporre che, come lei giustamente dice, sono requisiti indispensabili per riuscire nei romanzi d'appendice. Sono consapevole che tutto ciò non sia nelle mie corde e ritengo mi sia più congeniale intraprendere un'altra opera in 3 volumi. Ho pensato a lungo a una simile ipotesi, ma i tentativi fatti finora hanno dato risultati davvero inadeguati. Ho provato a iniziare 3 volte, altrettante sono state le delusioni. Pochi giorni fa ho ripreso in mano il professore. L'avvio mi è sembrato molto fiacco e l'intero racconto manca di accadimenti, nonché nel complesso di gradevolezza. Ciononostante, la parte centrale e la fine, ossia tutto quanto riguarda Bruxelles, la scuola in Belgio, eccetera, mi paiono all'altezza delle mie capacità. Vi ci trovo più fibra, più sostanza, più realtà che in gran parte di Jane Eyre. Propone, credo, un nuovo sguardo su una classe sociale, su un mestiere, su una tipologia di personaggi tutti molto usuali, magari anche insignificanti, ma non più del materiale trattato proprio nella parte di Jane Eyre che sembra piacere di più. Vorrei rielaborare il professore, colmarne le lacune come meglio posso, ridurre alcune parti, svilupparne altre e arrivare a farne un'opera in 3 volumi. Non è una sfida semplice, me ne rendo conto, ma confido nel fatto che non sia irrealizzabile. Ha avuto modo di leggere o analizzare il manoscritto? Che impressione le ha fatto? Crede che potrei renderlo migliore di come era ora? Con la certezza che per ragioni di affari e per integrità personale sarà completamente sincero con me. Considero un privilegio potermi riferire a lei. Le invio, caro signore, i miei più cordiali saluti, Current Bell. Dal fatto che il signor Nembai ha inviato agli autori le loro 6 copie, desumo che anche Cime Tempestose alla fine sia stato pubblicato. Mi chiedo quale accoglienza riceverà. Devo dire che merita gli epiteti di vigorosa e originale, molto più di quanto non li meritasse Jane Eyre. Per quanto riguarda Agnes Grey, ritengo che debba piacere a critici quali il signor Lewis, dal momento che è abbastanza vero e non eccessivo. I libri non sono riusciti bene, sono pieni di errori di stampa. In una precedente occasione mi sono forse espresso con troppa poca discrezione a proposito del signor Newby, ma non posso evitare di notare, non senza pena, quanto Alice e Acton non abbiano ricevuto un adeguato trattamento, come invece è capitato da me, da parte di Schmidt, Elder e Company. A William Smith Williams, 21 dicembre 1847, Haworth. Caro signore, non sono soddisfatto della prefazione che ho già inviato, temo abbia un connotato troppo frivolo. Se non ha obiezioni, preferirei sostituirlo con quella che le allego oggi. È molto più lunga, ma esprime meglio ciò che da tempo tentavo di comunicare. Credo che lei abbia ragione a proposito di Cime Tempestose e Agnes Grey. Ellis ha una mente forte, originale, ricca di uno strano potere, per quanto cupo. Quando scrive poesie, questa potenza si esprime in un linguaggio che è allo stesso tempo denso, elaborato e raffinato, ma in prosa esplode in scene che, più che attrarre, possono più che altro turbare. In ogni caso, Ellis migliorerà, poiché conosce i propri punti deboli. Agnes Grey rispecchia il pensiero del suo autore. Purtroppo l'ortografia e la punteggiatura dei libri stampati ne mortificano il valore. Quasi tutti gli errori corretti nelle bozze rispuntano invariati nelle copie finali. Se il signor Newby conduce sempre i suoi affari in questo modo, saranno ben pochi gli autori che vorranno continuare a pubblicare con lui. Mi creda, signore, rispettosamente suo, Current Bell. A William Schmidt Williams, 25 dicembre 1848, Worth. Mio caro signore, le scriverò più lungamente quando il mio cuore potrà trovare un po' di riposo. Ora posso solo ringraziarla con poche parole per la sua lettera, di una sincerità davvero eloquente. Emily non è più tra noi. I suoi poveri resti mortali sono stati condotti fuori dalla casa. Abbiamo deposto le sue amate spoglie sotto la navata della chiesa, di fianco a quella di mia madre e delle mie due sorelle, morte molto tempo fa, e del mio infelice e sfortunato fratello. Ma una piccola parte della famiglia ancora resiste, e a questo penso il mio povero padre. Ebbene, la perdita è nostra, non di Emily, e traggo un triste conforto appena odo il soffio del vento e sento l'affilata intensità del gelo, del sapere che gli elementi della natura non le recheranno più sofferenza, che la loro inclemenza non potrà raggiungerne la tomba. La sua febbre è quietata, il tormento sedato, la tosse profonda e cupa placata per sempre. Non ne sentiamo più gli accessi nella notte, né ci attendiamo di sentirli a ogni momento durante il giorno. Non assistiamo più alla strenua lotta tra uno spirito tanto solido e un fisico così fragile, una lotta senza posa, che vista una volta non si può più dimenticare. Attorno a noi regna una tranquillità tetra, ed è in essa che cerchiamo la strada per la rassegnazione. Mio padre e mia sorella Annie sono ben lontani dallo stare bene, e quanto a me, finora sono stata sostenuta da Dio con più misericordia, cosicché mi sono sentita in grado di sopportare il mio fardello, cercando al contempo di offrire un piccolo aiuto anche agli altri. Non sono malata, posso attendere ai doveri quotidiani e tentare di fare qualcosa per mantenere vive le speranze e la forza nel lutto che colpisce la nostra famiglia. Quasi ogni ora mio padre non fa che ripetermi: Charlotte, tu ti devi fare coraggio. Collerei a picco se venissi a mancarmi tu. Queste parole, può comprendere, fungono da sprone per il mio temperamento. Anche la vista del dolore di Annie, silenzioso eppure tanto profondo, risveglia in me una tale paura per lei che non oso vacillare. Qualcuno deve pur sollevare il resto della famiglia. Così non chiederò perché Emily ci sia stata strappata nel pieno del nostro affetto, perché sia stata sradicata nel fiore degli anni, nella promessa di ciò che avrebbe potuto realizzare con i suoi talenti. Non chiedo perché la sua intera esistenza ora giaccia calpestata come un campo di frumento ancora verde, come un albero rigoglioso colpito alle radici. Dirò soltanto: dolce è il riposo dopo la fatica, dolce la calma dopo la tempesta, e senza tregua andrò ripetendo che ora ciò è quanto sa Emily. Sinceramente sua, Charlotte Bronte. A George Henry Lewis, 1 novembre 1849. Mio caro signore, è passato circa un anno e mezzo da quando mi ha scritto l'ultima volta, ma sembra ancora di più, poiché da allora ho dovuto superare molte prove che come nere pietre miliari punteggiano il corso della mia vita. Ci sono stati periodi durante i quali le mie occupazioni sono state altre rispetto alla letteratura, alla critica o il tentativo di affermarsi, perdendo anche di vista ciò che invece mi appariva fondamentale quando è stato pubblicato Jane Eyre. Ora però, se possibile, desidero fortemente riprendere a coltivare questi interessi, ed è stato dunque un piacere ricevere la sua breve lettera. Vorrei che lei non pensasse a me come a una donna, e parimenti desidererei che tutti i recensori continuassero a credere che Karen Bell sia in verità un uomo. Con lui sarebbero più equi. So che lei continuerà a considerarmi in relazione a ciò che crede sia appropriato al mio sesso, e qualora non dovessi scrivere nel modo che lei ritiene più aggraziato, allora mi disapproverà. Tutti criticheranno quel primo capitolo di Shirley, eppure è un capitolo autentico quanto la Bibbia, indiscutibilmente. Comunque sia, mentre scrivo non posso sempre pensare a me in quanto donna, a ciò che è ritenuto adeguato alla femminilità per ciò che concerne fascino ed eleganza. Non è in questi termini, né a queste condizioni che ho iniziato a scrivere. E se questa fosse l'unica via per far accettare la mia scrittura, non esiterei ad allontanarmi dal pubblico senza disturbare oltre. Vengo dall'oscurità e a essa posso facilmente ritornare. Osservo cosa sarà di Shirley da lontano, le mie aspettative sono molto contenute, le mie previsioni in qualche modo tristi e amare. La esorto a dirmi onestamente cosa ne pensa. La piaggeria sarebbe peggio che vana e non ha alcun potere di confortare. Quanto al biasimo, riflettiamoci, non vedo perché dovrei temerlo tanto. Nessuno, eccetto me, potrebbe soffrirne, e in questa vita sia la felicità che il dolore svaniscono rapidamente. Augurandole ogni successo per la sua spedizione scozzese, gentile signore, le porgo i miei cordiali saluti, Current Bell. A George Henry Lewis, 19 gennaio 1850. Mio caro signore, desidero dirle perché la sua recensione sull'Edinburgh mi ha fatto affliggere. Non per la critica tagliente o per i severi rimproveri, non perché abbia lesinato gli elogi, dato che ritengo lei mi abbia lusingato quanto merito, bensì perché dopo averle sottolineato che desideravo essere valutato in quanto autore e non in quanto donna, lei ha rozzamente impostato la sua critica, non senza cattiveria mi è venuto da pensare, proprio su una questione di genere. Presumo che in realtà non l'abbia fatto con l'intento di nuocere e forse non riuscirà a capire perché mi addolora a tal punto qualcosa che lei crede in fondo essere solo una piccolezza. Eppure il dolore c'è e con esso anche l'indignazione. Vi sono un paio di passaggi che si sarebbe potuto risparmiare. Ad ogni modo non le serbo rancore, conosco la sua indole, non è cattiva o scortese, anche se spesso finisce per ferire moltissimo quei sentimenti di timore e ritrosia che a lei risultano incomprensibili. Ritengo che possa essere tanto entusiasta quanto implacabile, così come è al tempo stesso sagace e superficiale. È dotato di grande dottrina e perspicacia, eppure ha talmente fretta di esporre il suo pensiero che non si lascia il tempo di riflettere sugli effetti che la sua incauta eloquenza può avere sugli altri. E per di più, anche qualora se ne dovesse accorgere, credo che non se ne curerebbe. Comunque le faccio i miei complimenti. Ha ottime qualità e sa essere generoso. Nutro ancora della rabbia e penso di averne motivo, ma si tratta della rabbia che si prova per il gioco duro, non per il gioco sporco. Con rispetto e maggior mortificazione le porgo i miei cordiali saluti, Current Bell. A Elizabeth Gaskell, 25 agosto 1850. Mia cara signora Gaskell, non leggo con regolarità la Westminster Review, ma qualche tempo fa, lo scorso gennaio, ne ho avuto un numero al cui interno ho trovato un articolo intitolato La missione della donna, espressione abusata, che mi è sembrato corretto e sensato. Gli uomini stanno iniziando a vedere il ruolo della donna da una nuova prospettiva. Alcuni di loro, dotati di acuta sensibilità e forte senso della giustizia, riflettono e discutono di questo con un'onestà che suscita la mia ammirazione. Tuttavia sostengono, e in qualche misura sono d'accordo anch'io, che il miglioramento della nostra condizione dipende da noi stesse. Se è vero che vi sono mali contro i quali il nostro impegno diretto potrebbe fare qualcosa, è altrettanto vero che ve ne sono altri, profondamente radicati, e alla base del sistema sociale che nessun nostro intervento potrebbe sradicare. Mali di cui non ci possiamo lamentare e a cui è consigliabile non pensare troppo. Arrivederci, cara signora Gaskell, mi creda sinceramente sua, Charlotte Bronte. A Margaret Wooler, 6 febbraio 1852. Mia cara signora Wooler, a quanto sembra, Ellen Nassey le ha riferito che lo scorso dicembre ho trascorso 15 giorni a Londra. Avrebbero preferito che mi trattenessi un mese intero per poter consolidare molte delle conoscenze fatte, ma ho ritenuto che per me 2 settimane in un simile stato di agitazione fossero senz'altro sufficienti. Di solito passavo la giornata visitando luoghi di interesse turistico e spesso la sera erano previsti ricevimenti in società. Era già più di quanto potessi sopportare. In un'occasione ho incontrato un gruppo di miei critici, erano 7 in tutto, alcuni dei quali mi avevano aspramente avversata sulla stampa, ma devo dire che di persona si sono rivelati straordinariamente garbati. Questi signori mi sono sembrati infinitamente più imponenti, pomposi, manierati, appariscenti dei pochi autori che ho conosciuto. Il signor Thackeray, per esempio, è un uomo pacato e composto, ma pare comunque suscitare un certo timore reverenziale, se non addirittura diffidenza. Mi è stato proposto di incontrare Charles Dickens, Lady Morgan, le signore Tarlop, Gore e altri ancora, ma sapevo che queste conoscenze avrebbero comportato un aumento di popolarità che non ero disposta a sostenere, così ringraziando, declinato. In città nulla mi ha più incantato dei dipinti, è stata una gioia ammirare i migliori acquerelli di Turner in un paio di collezioni private. Le sue ultime pitture a olio sono opere strane, difficili da descrivere. Quanto al teatro, ho visto MacReady recitare sia in Macbeth che in Otello e durante una cena ho stupito tutti affermando candidamente che non mi piace. Va di moda entusiasmarsi per la sua splendida recitazione, eppure non saprei immaginare niente di più falso, costruito e meno autenticamente commovente del suo stile. Il punto è che il mondo dello spettacolo è una vuota assurdità, dove le farse vengono interpretate abbastanza bene in quanto gli attori comprendono la propria parte e le rendono giustizia, ma tutt'altro trattamento è riservato alla tragedia o a Shakespeare, poiché non si trova nessuno che sia in grado di capirci qualcosa e in questi casi i risultati sono fallimentari. Così dicendo, ho creato attorno a me il silenzio più assoluto, una muta costernazione. In diverse occasioni mi sono sentita in dovere di dissentire dall'opinione comune e la mia critica è apparsa offensiva. Oggi è diffusa l'ammirazione per uno stile poetico verboso, intricato e oscuro, di cui è l'esempio l'opera di Elizabeth Barrett Browning. Current Bell è stato consultato in merito ad alcuni di questi versi, ci si aspettava ne fosse rapito, ma non essendolo ha sconcertato tutti. Un provinciale resta colpito da quante importanze i londinesi accordino a piccole questioni di esclusivo interesse di alcuni ristretti circoli cittadini. A Londra si parla moltissimo di uomini e donne del mondo letterario, i cui nomi nelle campagne, dove quelle persone non suscitano alcun interesse, sono noti solo vagamente. Credo che non mi piacerebbe vivere a Londra e qualora fossi obbligata a farlo, frequenterei poco la società e soprattutto eviterei i salotti letterari. Mi aveva chiesto di scriverle una lunga lettera e ho obbedito. Con affetto e rispetto, sua Charlotte Bronte. A George Smith, 30 ottobre 1852. Mio caro signore, quando lo avrà letto, mi dovrà comunicare con onestà il suo giudizio su Villette. Per me è molto importante avere un'altra opinione oltre la mia. Non sa quanto mi sia sentita abbattuta, quasi disperata, perché non avevo nessuno cui leggere una riga o cui chiedere un consiglio. Jane Eyre è stato scritto in circostanze assai differenti, così come Due terzi di Shirley. A proposito della pubblicazione in forma anonima, ho qualcosa da dire. Se occultare il nome può comportare un danno materiale agli interessi degli editori, un ostacolo agli ordini da parte dei librai, eccetera, allora non insisterò. Ma se non si prefigurano problemi del genere, sarei molto grata di potermi rifugiare nell'ombra dell'anonimato. Sono spaventata dalla promozione, da titoli a caratteri cubitali quali il nuovo romanzo di Current Bell o il nuovo lavoro dell'autore di Jane Eyre. Queste, me ne rendo conto, sono le opinioni di una povera eremita e non devono influire su considerazioni più ragionevoli, perciò mi parli con tutta la franchezza che crede. Come vedrà, Villette non tratta questioni di interesse pubblico, non riesco a scrivere libri sugli argomenti del giorno, inutile che ci provi. E sebbene riverisca alla filantropia, non intendo affrontare temi come quelli alla base della Capanna dello zio Tom, il romanzo della signora Baker Stowe. Per trattare in modo opportuno una questione tanto rilevante è necessario averla studiata e vissuta a lungo, conoscerne approfonditamente le sfaccettature e avere la sensibilità di comprenderne effettivamente i mali. Il sentimento che permea quell'opera è sincero, non costruito. Si ricordi di essere un critico onesto riguardo a Villette e dica al signor Williams di essere spietato. Non che abbia intenzione di apportare modifiche, ma vorrei conoscere le vostre impressioni. Mi creda, sinceramente sua, Charlotte Bronte. A George Smith, 25 aprile 1854. Mio caro signore, la ringrazio per le congratulazioni. Sarò grata alla vita se si realizzerà anche solo una minima parte di quanto lei mi augura. Ciò che ho da riferirle è presto detto, è il frutto di una risoluzione ponderata negli anni, anche e soprattutto da parte del gentiluomo che mi ha chiesta in moglie, e spero di star compiendo la scelta giusta, accettando infine la sua proposta. È una decisione che ho preso con tutto il mio cuore. Il mio futuro marito è un uomo di chiesa, è stato il curato della canonica di mio padre per 8 anni. Ha lasciato l'incarico proprio perché l'idea di questo matrimonio non era stata accolta come sperava. Si era dedicato ai suoi doveri con straordinaria diligenza e la parrocchia ha vissuto la sua partenza con un'autentica catastrofe. Varie circostanze hanno poi indotto mio padre ad accettare il suo ritorno e non posso negare di essere rimasta impressionata e profondamente colpita dalle qualità che ha dimostrato in questa sua lunga fedeltà. Temo di non avergli reso in precedenza la giustizia che meritava, comunque ora sta per tornare. Ha rinunciato a delle ottime possibilità di carriera per poter far ritorno nell'oscuro villaggio di Haworth. Credo di far bene sposandolo. Ho intenzione di provare a essere una buona moglie. Sono stata preda di molte ansie, ma inizio a sperare che tutto andrà per il meglio. Le mie aspettative sono comunque assai contenute, alquanto differenti, mi sembra di poter dire, da quelle che nutriva lei prima del suo matrimonio. Preoccupazione e timore sono compagne della speranza, tanto che a volte riesco a malapena a intravedere quest'ultima, sovrastata com'è dall'ombra delle prime due. Eppure sono anche piena di gratitudine e i dubbi sul futuro saranno sciolti dalla provvidenza. C'è un aspetto per il quale posso vivere il matrimonio con completa soddisfazione, nella certezza di essere nel giusto, e consiste nel fatto che esso non mi distoglierà dalle cure che devo a mio padre, poiché non dovrò lasciarlo. Il mio futuro marito ha consentito di trasferirsi qui, così che mio padre riceverà un'assistenza devota e fidata durante la vecchiaia. Sinceramente sua, Charlotte Bronte. A Ellen Nussey, 21 febbraio 1855. Mia cara Elena, sono costretta a scriverti queste due righe dal mio letto. La notizia della guarigione di Mercy è arrivata come un raggio di sole nella mia vita. Non ti parlerò delle sofferenze che mi affliggono, sarebbe inutile e doloroso. Voglio assicurarti qualcosa che so ti darà di consolazione. Mio marito è un infermiere tenerissimo, il sostegno più gentile e il miglior conforto terreno che una donna abbia mai avuto. La sua pazienza è infinita, benché sia di continuo messa alla prova da giorni tristi e notti difficili. Scrivimi e raccontami della signora Hewitt, quanto è stata malata e cosa aveva. Grazie a Dio papà sta meglio, la nostra povera vecchia Tabby è morta e sepolta. Invece il mio più sincero affetto è la signorina Wooler, che il Signore ti conforti e ti saluti, Charlotte Bront Nichols. A Ellen nasce da Arthur Nichols, 31 marzo 1855. Cara signorina Nassi, la lettera del signor Bronte l'avrà preparata la triste notizia che le devo comunicare. La nostra cara Charlotte non c'è più, è morta la scorsa notte consumata dalla malattia. Nelle ultime 2 o 3 settimane la nostra preoccupazione per le sue condizioni era cresciuta, ma è stato domenica sera che abbiamo purtroppo compreso che la sua permanenza tra noi sarebbe stata breve. Il funerale si terrà mercoledì mattina. Mi creda, sinceramente suo, Arthur B. Nichols.